New Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Finita l'estate, si torna in classe, in ufficio, in Europarlamento. Gli eurodeputati tornano a Bruxelles. Apriamo la nuova serie di Youzone Dossier con alcune informazioni di servizio, a partire da quello che è cambiato durante l'estate per arrivare all'agenda dei prossimi mesi. Partiamo dalla presidenza di turno, che si riunisce a gruppi di tre per definire le priorità. In seguito alla Brexit, il Regno Unito ha lasciato all'Estonia il suo posto nel trio e se questo influenzerà le priorità dei prossimi mesi, lo capiremo a breve. Riprendiamo quindi da dove eravamo rimasti, dal 7 luglio, dalle posizioni dei vertici UE sulla Brexit. Donald Tusk spera che il Regno Unito sia un partner dell'UE in futuro. L'accesso al mercato unico, dice, significa accettazione delle quattro libertà, inclusa quella di circolazione. Durante l'ultima plenaria, Juncker aveva detto di attendere il comunicato. Niente negoziati prima del comunicato. Per il capo del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, bisogna invece riformare l'Europa. La verità, dice, è che i cittadini europei non sono contro l'Europa, sono contro questa Europa. Gianni Pittella, invece, del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, dice che difendiamo il metodo comunitario contro un rilancio intergovernativo che è assolutamente inaccettabile. Kamal, del gruppo dei conservatori e riformisti europei, in plenaria aveva detto che la politica è una questione di percezioni e ultimamente sembra che le decisioni siano prese da cinque uomini in una stanza a stringere accordi fra di loro. Categorica Marine Le Pen, rifiutate di ammettere che i cittadini rifiutano la vostra Europa. A settembre si riprende da qui, tra europeisti e anti-europeisti al lavoro per risistemare o ridisegnare gli equilibri dopo l'uscita della Gran Bretagna. Altro capitolo importante sarà invece il bilancio 2017. A fine giugno il Consiglio ha consegnato la sua copia del bilancio UE e gli eurodeputati hanno iniziato ad occuparsene dal 31 agosto. L'obiettivo del Consiglio è quello di promuovere crescita e occupazione. Come? Attraverso la ricerca e l'innovazione, attraverso il programma Erasmus+, e attraverso il fondo di aiuti europei agli indigenti. Ora tocca ai deputati europei a dettare le priorità, dal momento che anche loro condividono il potere decisionale sulle spese. Se dovessimo infine riproporre un elenco delle domande più pressanti che interesseranno gran parte del lavoro dei prossimi mesi, sarebbe più o meno così. Qual è l'impatto dello sviluppo economico della Cina sull'Unione Europea? A che punto è la lotta alla frode fiscale? Quale sarà la definizione di statuto uniforme per i profughi? Ci sono state irregolarità legate alle norme sulle emissioni delle auto in Europa? Come potete capire, è il caso di dire buon lavoro a tutti. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.